2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024 o benvenuti se questa per voi è la prima volta. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it oppure utilizzando Facebook o anche Twitter. Cercate 2024 o Enrico Pagliarini. Questa settimana ci sono stati alcuni annunci di cui parleremo tra poco a proposito di intelligenza artificiale, un tema estremamente interessante, ma non solo, anche molto importante per il futuro delle nazioni, dell'umanità e anche delle aziende. Iniziamo, come spesso facciamo, da alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Molti esperti dicono che il video online continua a trainare gli investimenti e anche la raccolta pubblicitaria. A proposito di video online, in questo caso non parliamo di uno strumento collegato al mondo della pubblicità, ma legato al mondo della creatività, perché parliamo di Netflix, che ha guadagnato 19 milioni di nuovi utenti nel corso del 2016, sfiorando quota 94 milioni. Il più noto sito di streaming di video online al mondo punta quindi a toccare quota 100 milioni di clienti nei prossimi mesi, cosa probabile visto che nel solo quarto trimestre dell'anno, quindi gli ultimi tre mesi dell'anno scorso, Netflix ha battuto le stime degli analisti raccogliendo 7 milioni di nuovi utenti. Nel 2016 i ricavi sono stati di 8,3 miliardi di dollari con un aumento del 35%, e 188 milioni di dollari di utile, più 54%. Mentre il 3D sui televisori è definitivamente tramontato, ne abbiamo parlato all'inizio dell'anno, a 2024, le tecnologie di visualizzazione 3D proseguono il proprio sviluppo su altre piattaforme. Microsoft punta ad investire in questo settore. L'azienda ha acquistato la svedese Simplygon, specializzata nell'ottimizzazione di immagini 3D, e anche la canadese Maluba, che non si occupa di 3D, ma è comunque una notizia legata a Microsoft e un acquisto della settimana, annunciato in settimana. Questa società canadese si occupa di assistenti vocali. TomTom ha annunciato l'acquisizione di Autonomous. Il nome è molto semplice e fa capire di che cosa si occupa una startup tedesca che si occupa di software per la guida autonoma e aiuterà quindi l'azienda a sviluppare nuove applicazioni per le auto a guida autonoma. Ovviamente TomTom cercherà di fornire alle case automobilistiche nei prossimi anni servizi di navigazione basandosi sul sistema di mappe proprietario su cui ha lavorato negli ultimi anni e sulla rete di sensori creata per avere informazioni sul traffico in tempo reale. Tra questi sensori ovviamente ci sono tutti gli utenti di TomTom che, utilizzando le mappe e i sistemi di navigazione, forniscono dati a TomTom che poi, mettendoli tutti assieme, cerca di capire, e ormai queste tecnologie sono piuttosto mature, lo si capisce molto bene, dov'è il traffico e che tipo di impatto ha sulla circolazione. Perché ovviamente anche le auto a guida autonoma, finché non ci saranno solo e solamente auto a guida autonoma, avranno bisogno di informazioni sul traffico. Un'ultima notizia riguarda Keeper Security, che è una società che si occupa di sicurezza digitale. Ha analizzato un database di oltre 10 milioni di password disponibili sul web, quindi password che in qualche modo sono frutto di violazioni di dati da parte di hacker in giro per il mondo, sono state pubblicate nel corso del 2016. Allora, analizzando questi dati, Keeper ha fatto una classifica delle password più usate e al primo posto si è piazzata, rullo di tamburi, sapete quale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, che è stata usata nel 17% dei casi. Uno dice, ma come si fa a pensare che 1, 2, 3, 4, 5, 6 possa essere una password sicura? A secondo posto c'è chi ha avuto un po' più di fantasia, perché è andato fino al 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al terzo posto QWERTY, che è la sequenza delle prime 6 lettere della tastiera di un PC, Q, W, E, R, T, Y. E insomma, questa ricerca conferma, semmai ce ne fosse bisogno, quanto poco la gente pone attenzione anche alla creazione di una password, che dovrebbe essere invece, oltre a cambiarla ogni tanto dovrebbe essere anche robusta e piuttosto complessa, cosa che abbiamo detto decine di volte, ma come si vede da questa classifica, che non è stato annunciato se si tratta di una ricerca fatta in Europa a livello globale o negli Stati Uniti, però dà un po' il senso. Ovviamente non è nemmeno esaustiva di quello che accade nella realtà, però dà un po' un'idea, perché stiamo parlando di 10 milioni di password che sono state analizzate. Fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman, e quello di eBay, Pierre Omidyar, hanno donato entrambi 10 milioni di dollari ad un fondo che si occupa dell'etica nei sistemi di intelligenza artificiale e che finanzia ricerche su questo tema, finanzia ricercatori che si occupano proprio di questi temi. Questa è una delle tante notizie degli ultimi giorni che riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale, e tra l'altro non sono nemmeno gli unici ad aver finanziato con milioni di dollari studi su questo tema. Abbiamo anche nel 2024 citato altri casi. E sempre a proposito di intelligenza artificiale, il MIT, l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, ha lanciato un sito internet, una sorta di gioco, quiz, chiamatelo come volete, che si chiama Moral Machine, macchina morale, per capire come le auto a guida autonoma dovranno prendere le decisioni. Si tratta di una sorta di sondaggio tra le persone, perché vengono fatte delle domande agli utenti, viene chiesto come dovrebbe comportarsi il computer che guida l'auto in caso di guasto ai freni e in prossimità di un passaggio pedonale. Ovviamente ci sono una serie di esempi anche che sono quasi assurdi, però per attirare l'attenzione sui problemi morali che l'intelligenza artificiale, la capacità delle macchine di reagire come o molto vicino a come reagirebbe un umano, tutto questo pone. Ad esempio, l'auto deve proseguire uccidendo due persone che stanno attraversando sulle strisce, o deve deviare andando contro un muro e eventualmente uccidere così i passeggeri dell'auto? L'ipotesi è sempre che ci sia un guasto ai freni e si sia in prossimità di un passaggio pedonale. In questa decisione si deve tener conto anche del numero di persone coinvolte, cioè se ce ne sono 4 sull'auto e 2 sulla strada, la macchina deve decidere anche in base al numero di persone che eventualmente vengono uccise. L'auto deve proseguire senza possibilità di frenare, uccidendo una donna incinta, o deve deviare e uccidere una persona anziana? Se chi passa sulle strisce lo fa con il semaforo rosso, quindi fa o commette un'infrazione, deve essere salvata oppure no? Tutto ciò anche perché le automobili del futuro saranno in grado di prendere decisioni in frazioni di secondo e potranno valutare moltissimi elementi che noi non siamo in grado di valutare, anche solo per la quantità di dati e la velocità con cui dovranno essere prese le decisioni. C'è chi dice che questo è un dibattito ancora molto lontano dalla realtà, perché dobbiamo prima risolvere altri problemi tecnici per le auto a guida autonoma, anche se abbiamo visto automobili che già oggi sono sulla strada e possono essere acquistate, che guidano da sole in modo abbastanza buono, senza grossi problemi. Però effettivamente ci sono ancora alcuni problemi da definire, non ultime le regole, perché ancora oggi è vietato far andare un'automobile, seppur tecnologicamente abilitata e pronta, in maniera autonoma. Ma ci sono tante altre domande che ci dovremmo fare. È giusto questo dibattito? Deve esserci un dibattito pubblico? Devono essere i governi, devono essere le aziende a prendere questo tipo di decisioni e a insegnare alle macchine come devono reagire anche in casi estremi come quelli che ho descritto poco fa? Ne ho parlato con il professor Luciano Floridi, che insegna filosofia ed etica dell'informazione all'Oxford Internet Institute, all'Università di Oxford, e sicuramente uno dei più autorevoli scienziati che si occupano di questi temi. Coinvolgono tutti, o almeno tutti che vivono a Milano, a Londra, a Roma, a New York, a Tokyo, cioè ovunque ci sia una notevole mobilità legata ad automezzi, a veicoli di ogni genere. Quindi se ci sono dei veicoli, questi veicoli potrebbero essere già automatizzati in diverse forme e a diversi livelli di automatizzazione, si parla da 1 a 5, il massimo è 5 in alcune categorie, perché è la totale automatizzazione di un veicolo come un'automobile che è in totale controllo di un sistema, chiamiamolo intelligente. Questo ovviamente coinvolge tutti, anche chi poi magari su questo veicolo non viene trasportato, magari come pedone, magari come diciamo, visitatore di una città, eccetera. Quindi il coinvolgimento è completo. Le preoccupazioni sono ragionevoli, ma a mio avviso sono al momento mal indirizzate. Su questo posso elaborare se abbiamo un momento. Certamente, sì sì. Ecco, allora, le ragioni che lei ha trovato su questo scherzo, chiamiamolo così, dell'MIT, sono esattamente le cose di cui noi non dovremmo preoccuparci. Non perché non sono serie, ma perché è realtà fantascienza. Nel senso che noi non arriveremo, si spera, ad essere così sciocchi da implementare un sistema che necessiti quel genere di scelte. È un po' come se lei mi dicesse: guardi, allora il futuro sarà così, testa vinco io, croce perdi tu, quale dei due vuole giocare? E dice: no, guardi, il gioco non mi piace, perché questo gioco io perdo sempre. Ah, non mi interessa, no, devi scegliere, testa o croce? No, le regole sono già truccate, quindi a che cosa stiamo giocando? Allora, se lei mi mette in una situazione, che è poi il classico problema che abbiamo visto, questo dell'MIT, ma che è famosissimo in filosofia, è il problema del carrello, purtroppo ha creato una sorta di industria di letteratura, la sua origine, che è stata tra l'altro poi un'origine di una filosofa qui a Oxford, era un argomento per dimostrare i limiti di certi ragionamenti, non per creare dei quiz, delle perplessità che non sono risolvibili. Allora, forse la cosa più intelligente da dire è: se l'MIT, questo scherzo che ha messo diciamo online, deve essere preso sul serio, tutto ciò che dimostra è che la vita a volte è tragica e ad alcune scelte non c'è una buona scelta, si va di male in peggio, padella o brace. Se l'alternativa davanti a lei è: vuoi stare nella padella o preferisci la brace, capisce che non c'è una buona soluzione, no? Certo. Allora, se bisogna uccidere due bambini da una parte o un dottore e una donna incinta dall'altra, qual è la tua scelta? Ma questa è la padella, la brace, non c'è una scelta ragionevole. Purtroppo mi hai inserito in una situazione tragica, una situazione dove appunto non c'è altro se non accettare il fatto che qualunque cosa si faccia sarà una cosa sbagliata. Ora, questo avviene sia a noi come guidatori ordinari, sia a qualsiasi sistema di intelligenza più o meno artificiale. Quindi io su questo lo trovo altamente, purtroppo, distraente. Questo non toglie nulla dal fatto che ci sono problemi serissimi che dovremmo affrontare. Allora, un po' la frustrazione qui è questa. C'è una nuova tecnologia che sta emergendo. Ci sono questioni molto serie da affrontare, di cui magari possiamo parlare tra un attimo se abbiamo tempo. Nel frattempo ci stiamo distraendo con giocattoli di tipo fantascientifico in cui tutto ciò che emerge è che a volte la vita è tragica ed è soltanto una scelta tra la padella e la brace. Questo non è un modo attento di procedere. Il modo attento sarebbe quello di chiedersi: ma cosa sta avvenendo veramente in questa trasformazione della mobilità, cioè del modo in cui noi utilizziamo lo spazio attraverso veicoli? Allora, si va dall'automazione dei veicoli in un aeroporto, in cui il contesto permette una completa automazione. Io mi aspetto che da un giorno all'altro non ci saranno più guidatori di autobus che portano, ad esempio, dall'aereo al controllo passaporti, perché questo è un ambiente che può essere del tutto controllato per far sì che l'autobus in questione possa fare un buon lavoro. Al contrario, le faccio un esempio, all'MIT ad esempio una delle scelte che non è possibile è attaccarsi al freno. Possibile che ogni volta dobbiamo andare avanti, e il freno dove l'abbiamo lasciato? A che velocità stavo procedendo? Eccetera. Ecco, quindi aeroporti sono in realtà ambienti in cui si può trasformare l'ambiente in maniera amichevole nei confronti della tecnologia, che restando abbastanza sciocca, tuttavia riesce a funzionare. Ci sono invece ambienti molto complessi, aperti, come si suol dire, in cui le variabili sono talmente tante e imprevedibili che purtroppo è difficile immaginare una completa automazione. Le faccio l'esempio della mia casa, qui io vivo in campagna, a Oxford, per andare in città o andare a Londra. Attraverso zone assolutamente di campagna in cui non ci sono strisce pedonali, non c'è segnaletica, addirittura a un certo punto potrei prendere una strada sterrata. Lei mi spiega il mio veicolo di grado altissimo di automazione come fa a portarmi da qui a lì su una strada sterrata, dove non c'è segnaletica, e tra l'altro la copertura qua del GPS è pessima. Allora, io non affiderei mai i miei capi di vestiario delicati a un'intelligenza artificiale inserita in una lavatrice. Vuole che affidi la mia vita a un'automobile, in questo modo. Non immagino che questo sarà il futuro. Detto questo, ci saranno enormi automatismi di controllo, di sicurezza. Li abbiamo già visti emergere, dall'airbag al parcheggio, alla cintura di sicurezza, che immagini i veicoli che non procedono se non c'è la cintura di sicurezza inserita, e così via. Tutto questo sta avvenendo e avverrà, e sarà sempre più facile guidare, e sarà sempre più sicuro guidare, questo sicuramente. Io sarei un po' sorpreso, diciamo così, se anche di qui a 10 anni ci fossero questi veicoli del tutto autonomi, completamente, ma non... Spero di essere chiaro, non in alcune circostanze, ad esempio in città per certi percorsi, alcuni tipi di autobus con percorsi privilegiati, certamente, ma la mia utilitaria per andare da qui a lì sarà un po' difficile. Ecco, ci sono altri problemi che adesso magari io taccio per un momento, così le lascio modo di fare qualche altra domanda sui quali varrebbe la pena soffermarsi. Sì, le faccio una domanda sul... Chi, secondo lei, dovrebbe occuparsi di questi temi? Dovrà esserci un dibattito, immagino anche di anni, che coinvolga l'opinione pubblica, o saranno i governi che se ne dovranno occupare, saranno i produttori di questi sistemi, perché non parliamo solo di automobili, che dovranno occuparsi di questo e magari proprio basare la propria competitività sulla capacità di aver risolto molti di questi problemi facendolo comprendere ai consumatori. Certo. Allora, penso che qui ci siano due scenari. Uno è lo scenario di quello che dovrebbe avvenire e l'altro è lo scenario di quello che è probabile che avvenga. Secondo me quello che è probabile che avvenga è che ci sia un rapporto anche complicato, non complesso, ma semplicemente difficile, complicato, come avviene spesso nelle innovazioni tecnologiche, tra legislatori, i cosiddetti policy makers, e quindi governi che possono implementare da un punto di vista regolativo le nuove regole del gioco, i produttori e l'opinione pubblica intesa anche semplicemente in termini di quanto riesco a vendere le automobili o quanto riesco a vendere i nuovi trattori. Immagini grandi sterminate zone agricole in cui un trattore deve fare avanti e indietro, ma è veramente necessario avere un guidatore sopra? Ovviamente no. Certo. Ecco, questi sono gli scenari in cui noi ci stiamo avvicinando. Questo credo è quello che avverrà, quindi un rapporto, quindi come sempre la differenza tra il disegno di un motore e poi quello che si trova in officina quando si va a riparare la propria automobile, sporco, un po' rovinato, le guarnizioni un po' che non funzionano. Allora, ecco, quello che succederà sarà questa cosa un po' che realistica, in cui tra governi, produttori e potenziali acquirenti, opinione pubblica in senso ampio, mescoleranno le varie questioni. L'ultima parola ce l'avranno i governi, perché alla fine bisogna ricordare, perché per quanto ci sia una pressione di interesse sia economico sia di utilizzo, poi alla fine nulla è più forte della legislazione che determina questo si può fare e questo non si può fare. Ora ci saranno anche operazioni di lobbying, insomma possiamo aspettarci tutto il normale percorso di una nuova legislazione in fieri. Quello che dovrebbe avvenire, e che non so se avverrà, e non è una mossa retorica la mia, semplicemente non ho chiaro in mente se questo avverrà o meno, è un dibattito pubblico. Ora, dibattito pubblico io non me lo aspetto negli Stati Uniti, che stanno diventando sempre più una democrazia disfunzionale, nel senso non ci aspettiamo oggi sicuramente grandi aperture, diciamo così, di consultazione pubblica purtroppo dall'altra parte dell'Atlantico. In Europa c'è ancora molto spazio, potrebbe essere una delle cose che sicuramente l'Unione Europea potrebbe promuovere, una consultazione, avere le idee chiare su quello che le persone preferirebbero o meno vedere attuato. Non so se questa avverrà, perché ci vuole un po' di volontà politica e anche di mancanza di distrazione rispetto ad altre questioni. Bisogna sempre fare i conti con il fatto che queste non sono questioni assolute, si inseriscono in una varietà di altri problemi che forse hanno priorità, dal terrorismo alla mancanza di posti di lavoro, a sicurezza e così via. Quindi forse la preoccupazione primaria, che siano proprio le driverless cars, come si suol dire, non riesco a immaginarlo. Ci sono poi altissimi scenari, bisogna ricordarlo, per questo appunto lo scherzo, diciamo così, dell'MIT non va preso sul serio. Lei immagini contesti in cui il veicolo autonomo non è la mia Fiat, ma è un carro armato. Immediatamente cominciamo a ragionare in termini molto diversi, non soltanto di finanziamenti, ma anche di funzionalità. Di cosa succede quando il carro armato prende una strada, ad esempio in quel gioco dell'MIT, o un'altra. Siccome sta lì per uccidere persone, forse non ha tanta importanza se ne uccide 5 o ne uccide 4. Lo stesso avviene appunto, come dicevo, per i grandi trasporti su grandi spazi o in zone molto limitate, ad esempio tutto quanto lo storage, cioè tutto il mondo della logistica, verrà trasformato, perché all'interno di un contesto in cui i grandi magazzini devono trasportare elementi dall'alto in basso, questo però sta già avvenendo. Uno deve soltanto guardare i video già disponibili su quello che sono i grandi magazzini di Amazon, per vedere che lì praticamente la componente umana è già ridottissima e si andrà riducendo. Entriamo in un altro discorso che è la perdita dei lavori, eccetera. Purtroppo tutto questo dibattito in genere è imperniato su il tassista, l'autista dell'auto. E questo certamente è una preoccupazione, ma è soltanto uno spicchio di una realtà molto più ampia. Adesso cambiamo argomento, anche se va detto che è molto difficile cambiare completamente argomento quando si parla di intelligenza artificiale, perché come abbiamo detto recentemente a 2024, queste saranno tecnologie che in un modo o nell'altro entreranno in tutti i settori, in tutti i business, in tutti i prodotti, in tutti i servizi. Parliamo di AXA Strategic Ventures, che è il fondo di investimento del gruppo assicurativo francese AXA, che ha effettuato il primo investimento in una startup italiana. Assieme ad Invitalia Ventures sono stati investiti 750.000 euro, quindi non una cifra incredibile, in Floome, scritto così. È una startup veneta che produce un etilometro da collegare allo smartphone tramite l'ingresso jack audio standard, un po' come gli auricolari. Ci sono vari strumenti che si possono collegare allo smartphone tramite l'ingresso jack, ad esempio abbastanza noto e abbastanza famoso un lettore di carte di credito americano Square, che ha avuto un discreto successo negli Stati Uniti. Molto facile, molto semplice, si usa questo come connettore, come connessione. Poi bisognerà vedere tutti questi strumenti in un mondo, chissà quando ci sarà e con che velocità arriverà, dove gli smartphone non avranno più il jack audio, come ha scelto di fare Apple sul nuovo iPhone e anche altri produttori Android. Per il momento produttori minori, ma vedremo poi con i prossimi Samsung che cosa succederà. Allora, tornando all'etilometro, un prodotto sicuramente interessante, perché si impostano i propri dati sulla app sullo smartphone che è collegata a questo etilometro, si scrive quindi sesso, altezza, peso, si soffia e l'app di Floome permette di verificare il tasso alcolemico. Luce verde, tutto ok, luce rossa, non si guida, se ti trovano ti becchi una bella multa e anche una decurtazione di punti sulla patente, se non peggio. Allora, ovviamente essendo un'applicazione sullo smartphone, il sistema permette di condividere i risultati, cioè essendo un'applicazione è uno strumento fisico più l'applicazione. L'applicazione permette di condividere i risultati, fare altre cose come ad esempio tenere un diario delle misurazioni. Se uno beve molto si misura spesso. Sapere quanto tempo manca prima di poter guidare, perché l'app riesce a calcolare questo, insomma, e altre cose. Costa 89 euro il prodotto, ovviamente questa è un'azienda che si rivolge anche al mercato business, che ne so, un'azienda di trasporti che vuole dotare di questo strumento tutti i propri autisti, è un esempio. Allora, un altro finanziamento, ogni settimana ci sono finanziamenti interessanti di startup anche in Italia, non tutte le registriamo, ma alcune non le citiamo, magari le registriamo, non le citiamo perché si tratta di startup che si occupano di business non collegati con i temi di 2024, ma c'è un altro finanziamento sicuramente interessante da 1,4 milioni. Quando parliamo di finanziamenti in Italia, insomma, parliamo di cifre non come quelle americane, e questo è uno dei problemi del sistema delle startup in Italia. Comunque, allora, 1,4 milioni curato da Invitalia Ventures, Principia SGR e Team Ventures, che hanno finanziato Pedius. Che cos'è? Molto interessante, un prodotto e un servizio per chi non sente, chiamati anche sordi. Lorenzo Di Ciaccio è il CEO, l'amministratore delegato e anche uno dei fondatori di Pedius. Benvenuto a 2024. Grazie. Inizierei subito dal mercato al quale vi rivolgete. Il mercato è un mercato un po' particolare, che è una nicchia, è quello delle persone sorde, cioè quelle persone che non riescono a usare il telefono appunto per il loro problema. E la storia è nata proprio da Gabriele, che è un ragazzo sordo che ha avuto un incidente d'auto e non è riuscito a chiamare né un'ambulanza e né un carattrezzi. Da lì l'idea, diciamo, com'è possibile? Abbiamo tecnologia per mandare un razzo sulla Luna e non riusciamo a far chiamare una persona sorda. Io, dato, lavoravo come consulente, da lì l'idea di usare le competenze tecniche al servizio, diciamo, delle persone con il sociale. Ecco, e voi che cosa avete realizzato? Quello che abbiamo fatto è abbastanza semplice. In pratica abbiamo utilizzato la tecnologia di sintesi e riconoscimento vocale applicata alla telefonata. Per farla breve, immaginate un'app stile WhatsApp, un'app di messaggistica, solo che dall'altra parte, invece di avere un'altra app che riceve i messaggi, c'è un telefono che squilla e una voce che legge i messaggi che la persona sorda scrive, e il nostro motore che trasforma quello che viene detto al telefono in testo, così la persona sorda ha una chat vera e propria davanti, mentre dall'altra parte l'interlocutore parla con una voce artificiale. Quindi questa è la sensazione, quindi qualcosa di semplice con tecnologie più o meno consolidate, specializzate poi sulla linea telefonica. Certo, non esistono altre tecnologie per fare la stessa cosa, cioè sul mercato forse esistono alcuni pezzetti che uno potrebbe mettere insieme per fare la stessa cosa, voi li avete integrati o non è così semplice? Allora, diciamo sì, la sfida principale era proprio la linea telefonica, perché il riconoscimento vocale è comune un po' a tutti, da Siri, Google Now, ci sono i comandi vocali che adesso funzionano abbastanza bene. Il problema è che la linea telefonica, come noterete anche dalla qualità, è diversa da quella che si può avere da un microfono in ambiente, e quindi questo è stato, diciamo, l'ostacolo maggiore per il motore. Quindi, diciamo, si è arrivati secondo me a un livello di tecnologia al limite della sufficienza per una conversazione, diciamo, buona. Perché il discorso di ridurre leggermente questa soglia fa sì che la comunicazione diventa molto più fastidiosa, quindi l'attivazione, diciamo, l'abilitazione della chiamata avviene se la qualità supera una certa soglia, e noi abbiamo lavorato per ridurre quegli errori e per ottimizzare i motori già esistenti con una capacità di audio diversa, una qualità audio differente. Certo, la persona che utilizza questo sistema può chiamare e quindi interagire qualsiasi persona o qualsiasi destinatario, che sia un ufficio o un servizio informazione? Esatto. In questo caso abbiamo fatto anche degli accordi con delle grandi aziende che hanno dei call center anche un po' più articolati, per cui un'interazione del genere non sarebbe molto scomoda. Quindi le aziende decidono di ottimizzare il loro call center grazie alla nostra tecnologia e renderlo accessibile. Quindi questo è stato, diciamo, il punto anche di business, la leva di business, non solamente consumer ma anche aziendali, quindi ottimizzare un call center e renderlo accessibile alle persone sorde, quindi questa è stata la nostra missione. Certo. Come avete risolto il problema dell'interazione con soggetti tra virgolette sconosciuti? Mi spiego, se io chiamo un ufficio per chiedere un'informazione e dall'altra parte sentono una voce sintetica, che è vero, le voci sono migliorate, le voci di sintesi vocali sono migliorate, ma un umano ancora se ne accorge. Ecco, questo tipo di interazione come viene superato? Allora, viene superato con un messaggio di introduzione. Allora, diciamo, noi abbiamo appositamente scelto una voce che sia, diciamo, chiara, però comunque non deve essere troppo simile a quella di una persona, perché bisogna far capire che c'è un'interazione diversa. Quindi all'inizio della chiamata c'è un messaggio che l'utente può cambiare, può personalizzare, però in genere dice: questa chiamata è effettuata tramite Pedius, un servizio di telefonia per le persone sorde. E magari consigliamo anche all'utente di personalizzare o inserendo il proprio nome, oppure so: buongiorno, sono Lorenzo, sono una persona sorda, sto usando Pedius per chiamarvi. La chiamata sarà un po' più lenta, quindi qualche informazione per preparare l'utente. Lorenzo, facciamo sentire, tanto sono pochissimi secondi. Questa telefonata è effettuata tramite Pedius, un servizio di telefonia per le persone sorde. Quindi questo è quello che facciamo, e in genere, diciamo, funziona abbastanza bene. Qualche volta, se specie in caso di locali affollati, in un ristorante, il caso tipico che il ristoratore va di fretta e allora sente questa voce, la associa magari a una campagna pubblicitaria, a qualche chiamata fastidiosa, e magari aggancia subito. In quel caso l'utente può segnalarci che c'è un malfunzionamento, un problema da parte della persona chiamata, e poi il nostro team, insomma, di assistenza ai clienti può contattare il ristoratore. In genere, una volta che la persona capisce che era una persona sorda che usava uno strumento del genere, a volte si scusa anche offrendo magari un caffè o qualcosa quando arriva, perché per loro è comunque un cliente e si rendono conto di aver perso un cliente. Quindi certo, dopo, in genere, dopo la chiamata, diciamo, rieducativa, chiamiamola così, non capita più questo genere di comportamento. Certo, quindi questo è interessante, il fatto che sia riconoscibile la voce sintetica, tu mi dici, è da un certo punto di vista necessario. Però ti vorrei fare una domanda, poiché voi lavorate con voci sintetiche, sistemi di riconoscimento vocale, sistemi che trasformano il testo in voce, a che punto siamo arrivati? La tecnologia che è disponibile sul mercato, perché immagino una parte della tecnologia la sviluppate voi, una parte invece la prendete dal mercato, da tecnologie che già esistono. Esatto. Qual è il tuo giudizio sul livello tecnologico al quale siamo arrivati? Allora, il livello tecnologico è molto buono, è cresciuto tantissimo negli ultimi 5 anni. Proprio per diciamo, la diffusione della connettività ha aumentato tantissimo la capacità di calcolo disponibile, perché mentre prima si cercava di fare tutto, diciamo, in locale, quindi con le risorse del computer o del telefono, la potenza era estremamente ridotta. Poi diciamo che in quest'ambito, nel mondo del riconoscimento vocale, quello che più che la potenza di calcolo servono tanti campioni e serve un addestramento. Diciamo, l'intelligenza artificiale in questo caso si basa sull'addestramento: più si allena meglio è, e io sul mio telefono, se un utente ha il suo motore, difficilmente riuscirà ad allenarlo abbastanza per avere una buona qualità. Il salto di qualità è stato, ad esempio, con Google, anche Siri, che hanno raccolto tantissimi dati, li hanno ottimizzati, e in questo modo la qualità è schizzata davvero in alto. Ad esempio, abbiamo, cioè, il nostro motore è in grado di tollerare anche espressioni dialettali. Infatti quando facciamo qualche demo, uno usa qualche parola in dialetto, che è una cosa che gli viene di fare per mettere un po' sotto stress il motore. E siccome ormai queste formule sono state campionate in qualche modo, in qualche tempo, dai grandi player, si riesce ad avere comunque una trascrizione. Quello che adesso, diciamo, ha avuto meno sviluppo è il tema telefonico, nonostante sia è un problema, diciamo, quasi matematico, perché ci sono meno informazioni a disposizione rispetto all'ambiente. Quindi magari in futuro, quando ci saranno, che so, le chiamate in HD, ci sarà forse un ulteriore incremento della qualità anche sulla linea telefonica. Nel frattempo noi quello che facciamo noi come Pegasus è cerchiamo di colmare questa differenza, perché parliamo comunque di pochi punti percentuali di precisione che però fanno la differenza tra uno stress nella comunicazione e una soddisfazione. Quello che facciamo è, sapendo l'interlocutore, quindi sempre se lo so che sto chiamando un call center, magari anche dal numero posso confrontarlo, ad esempio con le pagine gialle, so che sto chiamando un meccanico, so che sto chiamando magari un medico, e quindi utilizzo un vocabolario diverso. Quindi semplificare il vocabolario fa sì che la precisione aumenta, perché riduco, diciamo, lo spazio delle probabilità. Certo, hai citato le chiamate in HD, visto che per un certo periodo gli operatori telefonici ci dicevano qualche anno fa: stanno arrivando le chiamate in HD, ma qui non si vede nulla, anzi non si sente nulla. No, infatti è un qualcosa che ci vorrà ancora. Adesso qualche operatore le sta attivando, però funzionano solamente da 4G a 4G. Il problema è che va, diciamo, è un carattere, diciamo, remissivo, non è dominante. Se io ho anche le chiamate, un dispositivo di chiamate HD, e chiamo un telefono che non le supporta, o comunque se la chiamata passa per un nodo che non le supporta, si perde tutto. Anzi, questo crea un problema ulteriore, perché comprimere da una chiamata HD a una qualità più bassa in genere può aggiungere, cioè non è detto, però può aggiungere un'ulteriore perdita, invece di avere un canale analogico, diciamo, dall'inizio alla fine. Sì. Quindi, diciamo, c'è questo periodo di transizione che però ci vorrà un po'. Anche in America Verizon e AT&T hanno fatto lo stesso annuncio, però non si ha una copertura, diciamo, adeguata. A me infatti non capita quasi mai. Senti, c'è chi dice che mancano pochi anni al momento in cui noi interagiremo con delle macchine che saranno capaci di avere sintesi vocale, quindi parleremo con macchine senza accorgerci che stiamo parlando con una macchina. Quindi magari chiamiamo un call center, dialoghiamo con una cosa che crediamo essere un umano, invece non è un umano. Tu ci credi, e secondo te quanto tempo passerà? Allora, secondo me già adesso abbiamo degli esempi, qualche articolo sul famoso test di Turing, diciamo, in chat è stato fatto, diciamo, da mettere in voce poi la chat, diciamo, non è un grande problema. Diciamo che è sempre in ambito, cioè non sarà mai a 360 gradi, ci saranno magari degli ambiti magari ristretti in cui uno può davvero scambiare, o magari una macchina su alcune cose è più rapida, è più efficiente di un essere umano. Però, diciamo, secondo me non bisogna perdere la sensibilità da umano a parlare con le persone, a sentire quello che comunque le macchine ancora non hanno, cioè il lato emotivo, quell'aspetto lì, diciamo, sarà molto difficile da emulare. Ma dal punto di vista delle nozioni, del servizio, probabilmente arriverà un punto in cui saremo quasi più felici di farci servire, è un po' triste, però saremo quasi più felici di farci servire da una macchina rispetto che da una persona, perché le persone diventano sempre meno tolleranti, non so se è un bene o un male, forse è più la seconda. Certo. Però ho avuto un'esperienza entrando dopo tantissimo tempo in banca, invece di fare operazioni online, e vedevo che c'erano persone che andavano a prelevare i soldi dal cassiere, cosa che per me era assurda. Penso di averlo fatto un paio di volte in vita mia, quando appena avevo aperto il conto. Però, diciamo, è una cosa davvero rara. Però qualcosa che adesso questo è la mia generazione non lo concepisce proprio. Le future, magari anche parlare al telefono con una persona, dover raccontare il proprio problema a una persona e sperare che quella la risolva, sarà sempre meno scontato. Certo, ti faccio un'ultima domanda. L'applicazione ha un costo, un canone? Come funziona il modello di business? Allora, il modello di business è il cosiddetto freemium, ossia c'è un canone. Premesso questo, che noi come Pegasus siamo una società, siamo una startup innovativa con vocazione sociale, che significa che l'obiettivo principale non è tanto il profitto, ma il profitto è uno strumento, un mezzo per raggiungere l'obiettivo, che è quello di ridurre il problema delle comunicazioni per le persone sorde. Quindi, detto questo, la maggior parte dei nostri ricavi vengono comunque dalle aziende, dalle partnership con le aziende, e offriamo un servizio, diciamo, il punto freemium, ossia 20 minuti al mese sono gratis sempre per le persone. Se gli utenti vogliono chiamare di più, possono acquistare un pacchetto annuale, cioè un piano illimitato che costa 30 euro l'anno. Questo è un prezzo abbastanza, diciamo, basso comparato al settore delle telecomunicazioni, ma lo vogliamo fare per due punti. Uno, perché il discorso, vogliamo togliere quel concetto di disabilità, quel concetto, diciamo, assistenzialista della disabilità. Per noi i nostri utenti non sono disabili, ma sono clienti, e una persona diventa cliente nel momento in cui paga per un servizio. Quindi noi abbiamo voluto portare quel modello di business, diciamo, della Silicon Valley, dal stile Dropbox, ossia una parte gratuita per tutti, l'utilizzo professionale, diciamo, è a pagamento, e noi vogliamo riportare lo stesso modello sui nostri utenti, che è il nostro modo per trasformarli, diciamo, tra virgolette, da disabili, secondo la vecchia concezione, a clienti. Infatti noi non chiediamo certificato medico, non facciamo richieste anche imbarazzanti ai nostri utenti, che spesso uno che deve fare una richiesta per un asilo deve dimostrare di avere una sordità superiore a una certa soglia, se non ha lo score. Questa cosa la vogliamo lasciare dietro. Quindi questo è il modello che rappresenta un po' anche la nostra filosofia come azienda. Lorenzo, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro, in bocca al lupo. Alla prossima, ciao. Riprendiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24, siamo in onda il venerdì sera oppure domenica 13:30-14, ma come sempre vi ricordo che la versione di 2024 in podcast sul nostro sito internet o attraverso le app per gestire il podcast sullo smartphone, a partire ovviamente dalla app di Radio 24, in quella versione ci sono tutte le nostre interviste integrali. Quindi molti più minuti da godersi se siete appassionati di tecnologia. Dunque, continuiamo a parlare di startup, perché c'è un nuovo sistema per finanziare le startup, tutto online, nato grazie proprio alla tecnologia. Si chiama Equity Crowdfunding. Dario Giudici è presidente di Mama Crowd. Benvenuto a 2024. Grazie. Mama Crowd, al di là del mama, la parola crowd ci ricorda alcune cose che avvengono in internet: il crowdsourcing, il crowdfunding, il crowd qualcos'altro. Quindi voi vi basate sulla popolazione di internet per far che cosa? Ci basiamo sulla popolazione di internet per aiutare le startup, quindi progetti di nuove aziende innovative, a raccogliere denaro per finanziare la crescita. Tutto online? Tutto online. Oggi, grazie al nuovo regolamento Consob che consente l'equity crowdfunding, le aziende innovative possono raccogliere capitali dalla folla tutto via internet in maniera molto semplice. È una sorta di investimento? È senz'altro un investimento. Chi decide di sposare il progetto e di finanziarlo riceve in cambio quote societarie, quindi diventa socio della startup. Lo fa perché vuole cogliere tutti i benefici della crescita di queste aziende nel futuro. Senti, poi parliamo naturalmente di startup, parliamo anche quelle che, delle startup che avete sulla piattaforma in questo momento, che sono alla ricerca di capitali. Ma come fa una cosa del genere, che ha anche degli aspetti delicati, perché io investo, poi capiamo quanto investo, stiamo parlando finalmente di una piattaforma o di piattaforme, se allarghiamo lo sguardo a tutto il sistema dell'equity crowdfunding, che possono raccogliere anche pochi soldi dal singolo risparmiatore, e questo sicuramente è molto interessante. Ma come si fa a fare tutto online un processo che ha anche degli aspetti delicati, di fiducia nei confronti della startup o degli imprenditori che io vado a finanziare? Beh, diciamo che la rete intanto consente oggi di trasmettere questo valore in maniera abbastanza efficiente. Sulla piattaforma l'investitore trova video, trova un sacco di materiale informativo, capisce chi sono le persone, qual è il loro background, cosa stanno facendo e come. È chiaro che il contatto diretto con la startup è sempre possibile, quindi noi siamo qui per favorirlo qualora necessario. Cerchiamo di mantenere la startup concentrata sul sviluppo del suo progetto, ma in caso l'investitore avesse volontà di avere anche un contatto diretto per fare degli approfondimenti, noi cerchiamo di favorirlo. Però si può fare tutto online. Voi che cosa fate? Selezionate queste startup e vi ponete un po' come garanti, tra virgolette, per gli investitori? Cioè, se io vengo sulla piattaforma, immagino e spero che quelle startup abbiano una struttura, siano imprenditori di un certo tipo. Sì, questo credo che sia un tratto distintivo della nostra piattaforma in particolare. Noi siamo operativi ormai da 6 anni. In questi anni abbiamo stipulato partnership con 30 incubatori sul territorio, che sono soggetti esperti che ogni giorno supportano le startup e che prima di noi le selezionano grazie alla loro esperienza. Quindi noi proponiamo agli investitori solo progetti che sono già stati preselezionati da questi soggetti che ci hanno già investito, cerchiamo di portare solo progetti che siano già sul mercato, che abbiano tendenzialmente già anche del fatturato. Quindi siamo già usciti dalla fase di sperimentazione e siamo nella fase di crescita in cui i capitali vanno tutti a incrementare i fatturati e far crescere le aziende. Quindi praticamente è come che io facessi il piccolo venture capitalist. Esattamente questo. Quindi oggi si è aperta la possibilità per il risparmiatore di considerare le startup, le aziende innovative, come una nuova classe di investimento. Sì. E rimane comunque un investimento rischioso. Giusto? Rimane un investimento rischioso perché un investimento azionario se fatto su una singola azienda, ma come sempre in questi casi quello che gioca molto a favore di un fortissimo abbassamento del rischio è fare tanti investimenti. Oggi il crowdfunding consente di fare anche investimenti più piccoli in termini di ammontare, e questo consente all'investitore di diversificare, di costruirsi un portafoglio di 10-15 startup che riduce la rischiosità in maniera molto significativa. Quando parli di ammontare anche abbastanza ridotto, intendi quanto? Normalmente parliamo dell'ordine di qualche migliaio di euro. Una campagna può avere un minimo da 1.000 euro, da 2.000 euro, quindi questo significa che volendo anche solo dedicare, ipotizziamo, 10.000 euro del proprio patrimonio a questa categoria di investimento, si riesce già a comporsi un portafoglio di una decina, diciamo 7-10 startup. Questo è interessante perché effettivamente ci sono a volte delle startup che magari per vari motivi non riescono a diventare un'azienda, una grande azienda, ma io stesso vedo tantissime startup e spesso mi verrebbe voglia di fare degli investimenti perché penso che ci siano tante persone capaci con delle belle idee. Poi se uno ascolta da anni, 2024, ci sono alcune startup che abbiamo intervistato quando erano ancora nessuno, che oggi sono delle aziende che fatturano. Che garanzia c'è? Forse nessuna garanzia di rivedere o rivedere in parte l'investimento che uno fa. Allora, come in tutti gli investimenti azionari, ci si assume il rischio insieme agli altri soci dell'azienda, ed è un rischio imprenditoriale. Le aziende possono andare bene e possono andare male, possono anche fallire, però quello che è importante capire è che non è indispensabile andare a pescare la nuova Facebook o la nuova Google per aspirare a dei rendimenti anche molto importanti. Qui si investe quando la società vale dai 500.000 euro al 1.000.000 e mezzo di euro. Un'azienda che riesce a diventare una normale piccola impresa o media impresa italiana, come ce ne sono migliaia, che vale 50 milioni, vuol dire aver fatto 50 volte il proprio investimento. Ah certo, non c'è dubbio. Ci fai degli esempi di startup che state finanziando o che comunque sfruttano la vostra piattaforma per raccogliere denaro? Certo, stiamo finanziando startup in vari settori, da più prettamente digitali a business più tradizionali che innovano sfruttando la rete o le nuove tecnologie. Oggi, per esempio, un tema che è caro a tutti, che è quello della mobilità, ci porta a proporre una startup che si chiama Scooter, che su Roma sta avviando un sistema di sharing, quindi condivisione degli scooter elettrici. Hanno risolto finalmente il tema di poter avere uno scooter che si può guidare senza casco grazie a una serie di brevetti, molto leggero, e credo che questo possa avere un impatto sulla mobilità molto importante, soprattutto nelle grandi città. Abbiamo progetti più legati per esempio all'agricoltura, come Perfrutto, che è una azienda che ha sviluppato un sistema per la misurazione dei frutti nei frutteti e consente ai produttori di ottimizzare la produzione e quindi banalmente di guadagnare di più. Ci sono startup un po' più digitali come quella come Parterra, che fa attività di second screen cosiddetto, cioè vende app ai canali televisivi. Sono i signori che hanno fatto l'app di Amici, tanto per intenderci. Faccio una parentesi, sai che a 2024 tutto il mondo che chi lavora in TV chiama second screen lo chiamiamo first screen, cioè noi diciamo lo smartphone è il first screen, il second screen è il televisore. Esattamente così. Però si andrà sempre, capire, sì, si andrà sempre sì, di sì, più sì, in quella direzione. E poi ci sono startup come Gromia che invece si occupano di mercato immobiliare, in particolare degli affitti. Oggi chi vuole affittare casa con affitti di medio-lungo termine, non di breve come nel caso di Airbnb, si trova a dover gestire un processo a volte complesso con tante tematiche, oppure a doverlo dare a un'agenzia fisica. Ecco, Gromia fa l'agenzia online, quindi sostituisce le agenzie fisiche per tutto quello che riguarda il mondo degli affitti. Senti, queste startup quanto raccolgono? Cioè, normalmente se una startup si rivolge a voi è per raccogliere milioni di euro, centinaia, quanto? Tipicamente centinaia di migliaia, quindi diciamo dai 50.000 euro ai 250.000 euro, questa è il taglio medio delle raccolte, che è una fase di crescita. Poi nelle fasi successive tipicamente intervengono altri investitori istituzionali che apportano ancora più capitali, ma a quel punto il valore dell'azienda ha già iniziato a crescere in maniera significativa. Io posso uscire quando voglio? Non puoi uscire quando vuoi, ma bisogna che ci sia un cosiddetto evento di liquidità, cioè o l'azienda viene acquisita o entra un investitore terzo in fase di crescita e liquida i soci esistenti, sì, sì, o l'azienda si quota. Sì, sì. Quindi non è che come comprare un'azione sul mercato finanziario tradizionale. Non la posso rivendere su un mercato, ma sì, posso individuare un compratore che voglia acquisire le mie quote. Questo, le quote sono sempre liberamente trasferibili. Sì, sì. Poi immagino che non sia nemmeno questo il vero senso di questo investimento. Cioè io credo in una società e aspetto anche magari 5, 6, 10 anni prima di vedere dei risultati, magari se ci sono i risultati anche molto interessanti. Esattamente, certo. Sì, e anche se ci fosse un evento di liquidità, se potessi dare un consiglio è se l'azienda va bene e cresce, cerca di tenertela anche per tutta la vita, perché quell'azienda diventerà profittevole, comincerà a distribuire dei dividendi e quindi oltre al mio guadagno in conto capitale che intanto mi faccio, comincio anche a ricevere del rendimento. Volevo parlare brevemente dell'altro lato, cioè se io sono una startup, perché dovrei rivolgermi a voi e non al venture capital tradizionale? Perché raccogliere i capitali per le startup oggi è un inferno. Rivolgersi agli investitori professionali va benissimo, ma sono pochi soggetti, molto piuttosto lenti nei loro processi e che tendono a proporre delle condizioni che non sempre sono favorevoli per la startup. Potersi rivolgere al grande pubblico significa poter fare le cose in maniera fair e dove vince una legge della domanda e offerta del mercato, sì, e chi vuole aderire può farlo. Uno ascoltando queste parole potrebbe pensare, ah ma questi hanno fatto Kickstarter, Indiegogo, queste piattaforme famose internazionali, globali, americane, che raccolgono denaro a fronte di un'idea. Io, che ne so, invento un drone triangolare, vado su una di queste piattaforme e cerco soldi per sviluppare la mia idea. È la stessa cosa o no? Il principio è lo stesso, cioè finanzio un progetto rivolgendomi alla folla su internet. La differenza è che su Kickstarter o su Indiegogo chi finanzia il progetto in cambio riceve un cosiddetto reward, ossia un riconoscimento di qualche tipo, che sia il prodotto stesso o che sia un premio o un altro tipo di riconoscimento. Nel caso nostro e dell'equity crowdfunding, chi finanzia sta investendo e riceve in cambio quote di capitale dell'azienda. Sì, di solito. Quindi, appunto, su queste piattaforme uno finanzia, che ne so, con 100 euro, 200, quello che vuole, e gli viene già promesso, guarda, quando il prodotto sarà disponibile te lo diamo ad un prezzo di favore. Questo è uno dei principi che viene utilizzato. Poi molte persone finanziano e il prodotto non arriva mai perché la startup non riesce a partire, però questo è il gioco, insomma, a volte quello è il problema, il rischio. Sì. In quel caso, nel caso invece del nostro, no, si diventa soci della startup, quindi da quel momento si incomincia a condividere con la startup tutte le prospettive, incluse ovviamente e principalmente quella di crescita di valore delle quote in base a quanto l'azienda è in grado di crescere, di produrre fatturato e di incrementarlo nel tempo. Certo. Stiamo parlando di un mercato, quello del... lo diciamo all'inglese perché il termine tecnico che viene utilizzato è equity crowdfunding, ma lo abbiamo spiegato, mercato nuovo? È un mercato nuovo, ormai è qualche anno, ma diciamo che su questo l'Italia non è indietro in termini di processi, anzi in realtà è stato il primo paese che ha avuto una regolamentazione specifica sull'equity crowdfunding. È un mercato un po' meno maturo in termini di circolazione dei capitali e in termini di volontà e di conoscenza soprattutto da parte degli investitori di investimenti alternativi come questo. In altri paesi è già più strutturato, ma credo che come sempre l'Italia magari arrivi un pochettino più tardi sulle cose, ma poi ci sarà un processo di accelerazione e raggiungeremo e supereremo anche potenzialmente gli altri. Senti, c'è il rischio che anche in questo caso alcune piattaforme gigantesche internazionali entrino sul mercato italiano e prendano tutto? Guarda, questo è un rischio che c'è sempre, non so dire se sia un rischio o un'opportunità, come sempre quando si crea un mercato più attori ci sono e più è facile portare tante persone a guardare a queste cose. Non credo che sia facile per nessun player internazionale perché su tematiche come questa la conoscenza del mercato, della regolamentazione, della fiscalità e di tutto quello che è molto peculiare in Italia sia chiave. Quindi credo che noi italiani possiamo fare molto meglio di chiunque altro su questo tema. Senti, chi investe su Mama Crowd sono persone, immagino che abbiano un minimo di disponibilità economica, anche se abbiamo detto che bisogna essere ricchi, ricchissimi. Se uno ha un piccolo patrimonio e crede in alcuni settori, in alcune tecnologie, può avvicinarsi anche con poche migliaia di euro. Certo, in questo periodo alcune persone diranno, vabbè, ma averceli poche migliaia di euro. Però volevo capire con te che tipo di investitori ci sono e soprattutto se effettivamente sono investitori che hanno 5.000 euro e finanziano alcune startup oppure sono investitori che finanziano le startup anche con 10.000 euro. Allora, noi vediamo un po' entrambe le casistiche. Chi viene da noi è, diciamo, chiunque abbia capito, oltre ad avere naturalmente qualche disponibilità finanziaria, anche senza essere milionario, abbia capito che oggi è fondamentale diversificare i propri investimenti su categorie, su classi di investimento alternativi. Oggi non ci sono più strumenti finanziari che in grado di garantire o di dare del rendimento e comunque che sia costante nel tempo. C'è sempre più la ricerca di investimenti alternativi che producano valore e c'è un ritorno alla volontà di investire sull'economia reale. Certo, anche perché lo commentiamo tutti i giorni a Radio 24 quello che capita sui mercati finanziari e ricordo a proposito di incapacità del settore finanziario di dare rendimenti come li conoscevamo alcuni anni fa, ricordo le parole di Mario Draghi, per l'ennesima volta ha ribadito, guardate che i tassi rimarranno a questi livelli per molto tempo e la BCE ha confermato questa settimana tassi a zero. Zero è una roba incredibile. Certo, l'unica opportunità è investire sul mondo del non quotato, investire sulle aziende perché le aziende creano valore. Quindi si fanno due cose importantissime, credo, facendo questo tipo di investimento. Uno, si diversifica i propri investimenti e ci si dà una nuova opportunità di avere rendimento. Due, si va a finanziare l'innovazione in Italia, l'imprenditoria giovanile, quindi si aiuta anche, diciamo, si fa anche qualcosa di positivo per il paese. Nessuno vuole essere benefattore o salvatore del paese, ma credo che in questo caso sia win-win, no? Sia vincente da tutti i punti di vista. E tornando agli investitori, sono... che tipo? Diciamo vanno dal professionista piuttosto che dall'imprenditore che sa bene cosa vuol dire far partire un'azienda in termini di fatica ma anche in termini di opportunità al diciamo l'uomo della strada che per l'appunto ha capito che è necessario guardare al mondo del non quotato, guardare gli investimenti alternativi. Sì. E vuole e sono tanti investimenti piccoli o viceversa? Abbiamo sia persone che investono nell'ordine di migliaia o anche decine di migliaia di euro su singoli progetti, un po' perché forse hanno più disponibilità, ma un po' perché magari vogliono puntare un po' di più su alcune startup che capiscono meglio, sposano di più, a investitori che fanno investimenti anche più piccoli e ne fanno tanti. Voi lo dite quanti sono gli investitori o soprattutto quanto avete raccolto? Ma noi abbiamo una community che abbiamo come gestore, come società di gestione del portale, ormai attiva da 5 anni, che ci portiamo, che è di 19.000 utenti. Di questi ormai più di 3.000 hanno fatto investimenti. Noi abbiamo favorito gli investimenti su 130 startup per un totale di 16 milioni di euro in questi anni, con meccanismi molto simili all'equity crowdfunding quando ancora non c'era. Oggi c'è e continuiamo a farlo in questo modo. Ci auguriamo di riuscire sempre di più a avere un ruolo sul finanziamento dell'innovazione. Voi tenete traccia della vita di queste startup o quando escono dalla piattaforma ognuno le controlla? Ma allora, perché uno potrebbe domandare, vabbè, ma di queste startup quante sono ancora vive e funzionano e quante no? Da un punto di vista formale, chi investe poi diventa socio della startup e quindi continuerà ad essere informato, aggiornato dalla startup stessa in quanto socio, sia per un fatto di normativo che prevede che questo debba avvenire, sia perché è interesse della società tenere aggiornati i suoi soci e coinvolgerli. È chiaro che noi comunque continuiamo a seguire questi progetti perché poi nel tempo avranno ancora bisogno potenzialmente di nuovi capitali, e quindi è altrettanto importante per noi continuare a seguirli e continuare ad essere il riferimento anche degli investitori in futuro. Certo, e di queste startup avete una statistica? In termini di quelle che sono state finanziate, se e quante ne esistono ancora? Guarda, noi abbiamo dell'esperienza su quelle che su cui applichiamo il nostro metodo di preselezione. Abbiamo una sorta di portafoglio di progetti che abbiamo finanziato che di oggi conta 64 startup in portafoglio. Siamo partiti da 69 investimenti. Dopo 3 anni abbiamo un tasso di fallimento che è soltanto del 12%, è molto più basso rispetto alle medie internazionali sui fallimenti delle startup, e crediamo che sia in virtù del processo di preselezione che viene fatto. Quindi crediamo che quello che noi proponiamo via via anche sulla piattaforma abbia le stesse caratteristiche. Quindi fate anche voi degli investimenti? Sì, ne abbiamo fatti in passato, non noi con capitali nostri, ma sempre diciamo favorendo l'aggregazione di capitali dei privati che si sono messi insieme per fare degli investimenti. Noi li abbiamo aiutati attivamente nella selezione di questi investimenti attraverso la rete di incubatori partner, e crediamo che questo tipo di modello sia vincente. Molto bene, grazie a Dario Giudice per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie Enrico. A presto. Questa settimana IBM ha dato la propria visione di quello che può essere Industria 4.0 e dei benefici che la tecnologia può dare alle aziende anche in Italia. Sicuramente è un buon momento, visti i provvedimenti del governo. Come dico spesso, tutte le aziende dovrebbero dotarsi di un team per capire che cosa sta succedendo, perché quando parliamo di Industria 4.0 parliamo di un insieme di tecnologie tutt'altro che semplici, soprattutto per aziende che magari sono meno abituate a investire e rimanere al passo con le tecnologie. Comunque in generale per tutti è un po' complicato comprendere e prendere la strada giusta. Ovviamente ci sono tanti player nel mercato che aiutano le aziende, spiegano queste tecnologie, però è sicuramente un passaggio. La settimana scorsa parlavamo di pubblicità online e ne è uscito il nostro ospite, molto bravo e molto apprezzato, diceva, parlando della pubblicità online: eravamo abituati al triciclo e ci hanno messo davanti al cruscotto di un'astronave e dobbiamo abituarci. Guardate che anche per Industria 4.0 il passaggio è sicuramente simile. Comunque di questo ho parlato in settimana con Enrico Cereda, che è l'amministratore delegato di IBM Italia. Noi la chiamiamo Industria 4.0, la chiamiamo come portare valore al sistema paese. E qual è la vostra definizione di questa nuova declinazione della manifattura. La nuova declinazione della manifattura, che siamo in un momento in cui non siamo mai stati. Ci sono le condizioni sociali, politiche, economiche per far fare il salto di livello a questo paese. Un paese che è fatto di piccole e medie imprese, del famoso Made in Italy, e oggi, grazie alla tecnologia, possono effettivamente portare valore ai propri clienti e a tutto il sistema paese, noi pensiamo. E questo è dovuto per le condizioni che ci sono in questo momento. Il piano Calenda e quindi gli ammortamenti, il piano degli ammortamenti che è stato fatto dal Ministero, dal piano che ne include solamente gli ammortamenti, ma anche il credito d'imposta, ma anche un salto culturale grazie ai Competence Center, grazie ai Digital Innovation Hub. Non solamente il piano Calenda, ci sono delle opportunità oggi a livello tecnologico che non ci sono mai stato. La maturazione delle tecnologie, del cloud, degli analytics, del social e soprattutto dell'intelligenza artificiale, del cognitive computing, non sono mai stati così maturi e possono portare un valore significativo a tutte le aziende. Dal punto di vista tecnologico, voi che definizione date? Cioè, come la raccontate agli imprenditori che magari si spaventano di fronte a certi tecnicismi o certe parolone? Allora, 12 mesi fa, un anno fa, si spaventavano, è vero. Non c'era la consapevolezza che c'è oggi. Oggi frequento Confindustria, frequento Asso Lombarda e devo dire che nei piccoli e medi imprenditori, ma mi piace chiamarli più imprenditori che piccoli e medi imprenditori, c'è la consapevolezza che la tecnologia può essere utile, è un fattore abilitante del loro business. Il vero problema è il come. Ce lo riassume il come sfruttando la tecnologia? Il come è quello che vogliamo fare, è sfruttare la tecnologia, ma ci sono due elementi differenzianti, che sono le competenze. Oggi abbiamo in IBM Italia 700 risorse che lavorano sull'industria 4.0, non solo competenze, ma anche la presenza sul territorio. L'innovazione tecnologica nelle medie imprese italiane non si fa a Milano, non si fa a Roma, ma si fa sul territorio. Voi non siete più l'IBM di qualche anno fa. Che cos'è oggi l'IBM? Non mi piace dire non siamo più l'IBM di qualche anno fa. Prima di tutto rispondo con una domanda, 90, che sono gli anni di presenza di IBM in Italia. E siamo l'IBM di tanti anni fa. Ci siamo trasformati, questo è vero, ma siamo sempre l'IBM di tanti anni fa. L'IBM che è sempre fianco ai clienti, l'IBM che è sempre vicina e soprattutto in un'ottica di servizio ai clienti. Oggi sicuramente ci siamo trasformati e non vediamo solamente la tecnologia come fattore abilitante, ma ci poniamo come services integrator a fianco delle imprese. Che cos'è un service integrator? Un service integrator è un player come IBM che mette a disposizione le proprie capacità per creare valore alle aziende e lo fa non solo attraverso le proprie tecnologie come le nostre, ma lo fa in modo inclusivo. Oggi lavoriamo con i nostri partner, ma lavoriamo anche con tantissimi player dell'industria IT per portare valore. Da un certo punto di vista i competitor da un lato, ma anche i partner sono aumentati di molto, perché le tecnologie sono disponibili a prezzo molto più basso e da questo punto di vista il mondo è cambiato molto. E continueranno a cambiare, continueranno a aumentare. Oggi non abbiamo solamente competitor nell'industria IT. Oggi i competitor arrivano da qualsiasi industria, così come nelle altre industrie. Quindi a mio avviso non dobbiamo porci il problema di chi sono i competitors, ma dobbiamo sempre, e l'abbiamo sempre fatto, di come portare valore ai clienti. Le faccio un'ultima domanda sul cambiamento culturale. È anche un problema di età degli imprenditori? Secondo me non è solamente un problema di età, è un problema di consapevolezza. Ripeto, oggi la vedo negli imprenditori, consapevolezza che oggi le tecnologie sono il fattore abilitante del loro business. Oggi non c'è un'azienda di successo se non un'azienda che ha investito nelle tecnologie, che grazie alle tecnologie ha aumentato la propria produttività oppure ha aperto nuovi business. Sempre a proposito di industria 4.0, manifattura 4.0, fabbrica 4.0, insomma ci sono tantissime definizioni di questa rivoluzione tecnologica. Ho parlato anche con Massimo Zocche, che in IBM si occupa di trasformazione digitale in ambito manifatturiero. L'elemento portante dell'industria 4.0, oltre a quella della digitalizzazione dell'assetto produttivo, che non è Industria 4.0 ma è l'Industria 3.0, se vogliamo bene. Che alcuni dovrebbero aver già, fatto, ma non tutti hanno fatto. Non tutti hanno fatto, è quella di avere la capacità di raccogliere i dati e di analizzarli per prendere informazioni in tempo reale. Questa, diciamo, è la definizione più semplice. Per fare questo c'è appunto la necessità di avere la capacità di raccogliere queste informazioni, di metterle in un luogo sicuro e di poterle analizzare con degli strumenti che ragionino in tempo reale, al fine poi di prendere delle decisioni o di supportare delle decisioni che prendono delle persone, oppure di innestare quello che è il grande elemento di novità, quindi la componente cognitiva di intelligenza artificiale, in modo che il sistema si autoequilibri da solo. Questo vale per tutte le industrie manifatturiere, anche quelle molto pesanti e da un certo punto di vista molto semplici, che ne so, una fonderia. Ovviamente anche nella fonderia ci sono grandi complessità, ma stiamo parlando di un processo tipico di un'industria pesante, e per l'uomo della strada potrebbe essere il tipico esempio di un'industria abbastanza semplice. Prendo un minerale, prendo una materia prima, la fondo e faccio delle barre di ferro. Teniamo presente che proprio in questo caso specifico il problema è esattamente opposto. Pur essendo un processo teoricamente molto semplice, in realtà i processi di una fonderia sono altamente strumentati. Il problema è qui che normalmente vengono raccolti dati una volta ogni 4 decimi di secondo, e quindi c'è una sovrabbondanza di informazioni che il conduttore dell'impianto difficilmente riesce a interpretare. Quello che noi stiamo facendo con due fonderie in Italia è proprio quello di rendere intellegibile il dato e trasformarlo in informazione. Anche nel piano Calenda il concetto di un nuovo modo di interfacciarsi con la macchina, modalità innovative di interfaccia a nuova macchina, la componente di analytics che rende intellegibile la macchina, sono due degli elementi portanti. Quindi a volte abbiamo la assenza del dato e dobbiamo aiutare l'azienda a raccoglierlo e a intercettarlo, a volte abbiamo talmente tanti dati che diventano inutili, e quindi la componente cognitiva e la componente degli analytics rendono fruibili questi dati. Dal nostro punto di vista, le nostre esperienze che abbiamo fanno anche sì che noi abbastanza a colpo sicuro sappiamo già quali sono le informazioni rilevanti per la conduzione di quell'impianto. E soprattutto il tema è molto forte per quanto riguarda il controllo del processo volto alla qualità del prodotto e la predizione di quello che è l'andamento del processo, e quindi la manutenzione di tipo predittivo. Certo, possiamo fare un altro esempio, un paio di esempi al di là della fonderia? Sì, certo. Potremmo fare 45, tu direi, però 45, però nelle aziende più di tipo discreto. Nelle aziende di tipo discreto è molto importante la capacità di ottimizzare il flusso produttivo usando diverse macchine per realizzare il prodotto. Per tipo discreto cosa intendi? Vuol dire quando io produco un oggetto per il quale ho bisogno di utilizzare prima un tornio, poi una fresa e poi magari un trapano, e poi alla fine ho una parte di assemblaggio. Questa è una produzione di tipo discreto. Qui è importante riuscire a mettere in rete le informazioni in modo da avere un sistema che riesca a comprendere come sta avvenendo il flusso produttivo, quali sono i tempi di attraversamento, a che punto si trova del processo produttivo il mio componente, dare informazioni affidabili sulle modalità di consegna. Ma la cosa più importante è che se in questa specie di balletto perfetto succede qualcosa, e nel mondo reale succede sempre qualcosa, il sistema è in grado di autoriconfigurarsi, e quindi la componente, diciamo, di contextual planning, come la di pianificazione contestuale rispetto agli eventi esterni, che possono essere un ritardo nell'approvvigionamento dei materiali piuttosto che una specifica che all'ultimo momento il mio cliente mi cambia, riesce ad autoriconfigurarsi e a darmi capacità di avere costi bassi di produzione ed alta flessibilità. Un'ultima domanda sulla condivisione dei dati. Voi avete detto che un grande valore risiede nella capacità delle aziende di condividere i dati, ma anche qui io, imprenditore immaginario, potrei controbattere e dire no, quello che accade nella mia azienda, quindi i dati che io riesco a raccogliere all'interno della fase produttiva, all'interno della mia azienda, sono dati miei e li voglio tenere tutti per me. Che cosa significa condividere i dati e perché voi dite che c'è un grande valore nella condivisione, nella capacità di condividere questi dati? Un po' deriva dal fatto che se noi vogliamo integrare orizzontalmente, quindi avere questa filiera, diciamo, di informazioni tra clienti e fornitori all'interno di una supply chain, la condivisione delle informazioni diventa un fatto abilitante. Se non c'è, non è realizzabile. Qui ovviamente le aziende si muovono condividendo informazioni non a 360 gradi, ma con ad esempio fornitori o partner che hanno un rapporto di tipo privilegiato. Quando invece noi abilitiamo ad esempio servizi di monitoraggio remoto degli impianti produttivi, il tema è leggermente differente. Ci spostiamo sul tema precedente della sicurezza, nel senso che l'informazione resta proprietaria tra i due partner che si scambiano le informazioni, nessun altro ha la possibilità di vederla e vengono segmentate semplicemente per abilitare quel caso d'uso che è stato condiviso a priori dalle parti. E quindi io trovo valore nel condividere le informazioni del mio impianto produttivo al fine di abilitare a te, mio fornitore, un servizio di after sales che ti consenta di arrivare col pezzo di ricambio da me prima che la mia macchina si rompa. Quindi c'è un tema di segmentazione, sicurezza e condivisione all'interno di un network, diciamo di partner certificati. È tutto per questa puntata di 2024, quella che avete ascoltato è la versione podcast del nostro programma, come sempre con maggiori contenuti rispetto a quelle che ascoltate alla radio, in FM, in digital radio, in DAB+, in buona parte dell'Italia, ormai copriamo quasi il 70% della popolazione italiana, ne abbiamo parlato anche recentemente. Potete ascoltare Radio 24 anche via satellite, sia sulla piattaforma Sky, ma anche sul satellite libero, diciamo così, oppure in streaming o appunto nella versione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Io sono Enrico Paglierini, come sempre grazie per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana.